Partiamo anche oggi dal Vangelo che leggiamo nella Messa e il passo successivo di San Marco e nella lettura continua che stiamo facendo in queste prime settimane dell'anno e oggi ecco sono alcuni versetti pochi dal capitolo 8, 11, 13, no? Quindi è un brano piccolino del Vangelo di Marco che viene inserita dall'Evangelista subito dopo la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci, dopo la misteriosa località di Dalmanutà, che nessuno sa dove sia, ma comunque sarà lì sul lago, forse sepolta, no? E un giorno gli archeologi la troveranno. San Matteo nel brano analogo la chiama la terra di Magadian, però anche quello non aiuta l'identificazione del luogo. Comunque, arrivati lì, l'Evangelista dice così: vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, a questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. E a me colpisce questo episodio della vita di Gesù, narrato da San Marco. Mi colpisce perché manifesta così una alcuni suoi sentimenti. Lo potremmo intitolare sospirò profondamente, Sospirò profondamente. Così anche noi quando sospiriamo possiamo pensare che anche Gesù ha sospirato profondamente. Qualche volta a me hanno detto che si notava che c'era qualcosa che non funzionava perché respiravo profondamente, no? Sbuffavo, non me ne ero reso conto, ma ci starò più attento, no? In una circostanza analoga. E a volte il corpo manifesta, anzi spesso, dipende, no? dalle capacità che abbiamo, dalla struttura umana che il Signore stesso ci ha donato, se il corpo manifesta i sentimenti o no, o meno, o poco. A volte di nascosto, no? Di nascosto il cuore batte forte, e però gli altri non notano, anche se a volte gli occhi si dilatano, no? Si comincia a sudare, diventare rossi, così. E a volte anche il respiro, no? Uno respira profondamente per prendere forze, le forze dell'ossigeno, per riuscire a non sbottare, no? A non mandare a quel paese questi farisei. Ma io penso, Gesù, che tu abbia avuto una gran voglia di mandarli a quel paese, no? Altre volte lo fai. E possiamo dire, San Matteo, nell'episodio analogo, in realtà riferisce cose che Gesù dice abbastanza forti a questi farisei. E notiamo, è interessante vedere che anche gli evangelisti scelgono episodi della vita di Gesù, a volte sono paralleli, a volte c'è solo uno, o in due, o tutti e tre, gli sinottici, o anche San Giovanni. E poi anche nel raccontarli sottolineano una cosa o un'altra. il Papa l'ha detto, no? Abbiamo quattro evangelisti, no? E tutti i Vangeli sono in parte simili, uguali, evidentemente manifestano la stessa fede, no? Lo stesso mistero, e in parte diversi. E anche questo è molto consolante, no? È molto consolante. Il nostro padre raccontavano quelli che insomma, gli incaricati del preparare i film che vedevano negli anni 60 avevano la possibilità di vedere settimanalmente un film lì nella loro sede di Viale Bruno Bozzi e però un giorno scelsero un film su Gesù, ma San José Maria a un certo punto se ne andò perché dicendo: questo non è il mio Gesù, questo non è il mio Gesù. E effettivamente era più facile scegliere un film, che so, poliziesco, no? Però perché evidentemente ecco, nella sua orazione, ma anche noi così, no? Ci immaginiamo il nostro Gesù. Ma ci aiuta molto leggere il Vangelo per riconoscere Gesù, i tuoi sentimenti abbiate in voi. Ci diceva San Paolo, scrivendo ai Filippesi, gli stessi sentimenti che sono nel cuore di Gesù, no? Gli stessi sentimenti di Cristo. Ma a noi aiuta anche solo sapere che tu hai tutta la gamma possibile dei sentimenti umani e li vivi con pienezza. E quindi ci induci a non averne paura, non abbiamo nessuna paura dei sentimenti. Sappiamo che a volte, perché sono creati da Dio, perché sono buoni in sé. Ovviamente sappiamo che abbiamo anche l'inclinazione al peccato e quindi ci possono sviare, ma ciò non ci porta a desiderare di non averli. Ci porta ad imparare ad incanalarli. Per esempio, qua Gesù riesce, secondo San Marco, a non sbottare, semplicemente sospira profondamente, e poi, invece di mandare loro a quel paese, ci va lui, no? Cioè, è appena arrivato ad Almanuta, chissà cosa doveva fare ad Almanuta, avrà avuto un programma, no? Un progetto. Sapete che vi dico? Me ne vado da un'altra parte, no? Vi lascio con un palmo di naso, eh? Ma ci dai un segno, devi darmi un segno, perché noi dobbiamo sapere che quello che tu fai, viene da Dio. E lui riesce, tu Gesù riesci a non fare una pernacchia, ma sarebbe venuta benissimo, perché e neanche a non dire: scusa, scusa, scusa un attimo, ma di che cosa stiamo parlando? Ma dunque, vediamo un po'. Volete un segno? Ma io appena ho cominciato a parlare nella sinagoga di Cafarnao, ho scacciato un demonio. E voi siete capaci di scacciare demoni? E la fama si è diffusa ovunque, dice San Marco. Poi sono andato nella casa di Pietro. Pietro, dove sei? Diglielo tu a questi puntini puntini, asterischi, no? Si trattiene, no? E ti ho guarito la suocera. Presa per mano, tirata su. Poi alla sera volevo fare un giro tranquillo, una passeggiata, sono venuti tutti i malati e ho guarito molti malati, ho scacciato molti demoni. Poi il lebbroso, ti ricordi del lebbroso? Gli ho detto: ma non dire niente a nessuno, figurati. Questo qua va in giro e parla, tanto che io non ho potuto più, per un po' di tempo, finché si sono accorti che non avevo preso la lebbra, non ho potuto entrare nella città. Ho dovuto vivere io la legge di Mosè e stare lontano, perché ero diventato impuro. Però quello è guarito. Poi, quando, ma vi ricordate, eravate presenti anche voi, i farisei, o i vostri compagni, o i vostri, quelli della stessa setta, no? Eravate lì presenti per controllarmi nella casa di Pietro quando mi hanno calato dal tetto il paralitico e io gli ho perdonato i peccati perché era la cosa più importante. E loro mormoravano tra sé: questi soloni, quelli che sanno tutto loro, no? i padroni di Dio, no? I padroni della fede, no? Loro che comandano cioè hanno il potere spirituale, che è uno dei poteri più grandi, e se viene usato in modo, diciamo così, autoritario e ingiusto, provoca l'indignazione di Gesù. Però poi, siccome loro non capivano, gli ha detto: senti, tirati su, prendi il lettuccio, torna a casa tua. Poi, secondo sabato, nella sinagoga, eravate lì anche voi o i vostri amici? Cioè, gli ho detto: ma scusami, ma si può guarire uno in giorno di sabato con la mano paralizzata? E nessuno di voi aveva il coraggio di dire niente. E io vi ho guardati indignato. È un bel sentimento di Gesù, l'indignazione, no? E poi lo ha guarito. E poi comunque dice San Marco, molta folla lo segue da tutte le regioni, anche, e guarisce molti demoni, e scaccia molti demoni, guarisce molti malati. Poi i discepoli, volete dire loro quando eravate sulla barca in tempesta che e io dormivo placidamente sul cuscino, perché c'era anche un cuscino sulla barca di Pietro, e mi avete svegliato impauriti, e io con un gesto ho detto al vento: taci, calmati, lasciami dormire. E quello si è placato. E poi anche, non solo qui, anche sono andato anche a Gerasa, no? E quello lì che aveva una legione di demoni dentro è rimasto liberato, e gli ho detto: vai a casa tua a dire quello che ti ho fatto, e ha sparso la voce in tutta la Decapoli. Poi per strada l'avete visto tutti, c'era una folla che mi stringeva. Ho guarito quella donna che perdeva sangue. Lei mi ha solo toccato il lembo della veste, perché anche lei, con le idee che gli avete messo in testa voi farisei, non aveva il coraggio di chiedermi di poterla toccare, perché sapeva che mi rendeva impuro, perché perdeva sangue. E allora da dietro, forse solo, poi non mi vede nessuno, perché le leggi, queste leggi qua, queste leggi che imbrigliano la libertà dell'uomo, poi portano ad agire di sotterfugio. E comunque Gesù è proprio contento, no? che questa donna abbia agito così, con l'autenticità del cuore, ha fatto quello che poteva per evitare di essere messa in croce da questi qua, no? Però aveva voglia di essere guarita, e allora ha voluto metterla in evidenza davanti a tutti e liberarla soprattutto da questa paura che aveva. Sei rimessa in società, eh? Non perdi più sangue. E in quel caso, sentimenti di Gesù, ha sentito nel suo corpo che era uscita una forza da lui. Che bella l'unità di vita, ma l'unità della persona di Gesù, anima, e corpo, anima, psiche e corpo, cioè tutto quanto. Sei tutt'uno, Gesù. E infatti tu guarisci toccando col tuo corpo, a volte con le parole, a volte con la saliva, a volte con le dita, a volte prendendo per mano, a volte anche da distanza. Vai, che tua figlia è guarita. Anche solo il lembo del mantello guariva, cioè quello che è in continuità con il suo corpo. E non avete visto voi farisei, non avete sentito dire, il capo della sinagoga aveva la figlia morta. E anche lì, che bello vedere i sentimenti di Gesù, che quando quelli lo deridono, ma oh, è morta, ma che vuoi tu, li scaccia via, andate, in quel caso sì, a quel paese, no? Non li vuole vedere, non vuole che entrino. Sono indegni di vedere un miracolo, no? Come quello, chiama solo Pietro, Giacomo e Giovanni, e poi insiste Sei insistente, Gesù, sulle cose giuste. Insiste che le diano da mangiare alla bambina, perché sono così presi dalla gioia di averla rivista viva che si possono dimenticare, no? E a Nazareth, certo, siccome sono increduli, guarisce pochi malati, però li guarisce. Addirittura i discepoli mandati da lui fanno questi stessi miracoli. Capite, i farisei che vengono a chiedere un segno, no? Dal cielo, cioè da Dio. Ho moltiplicato pani e pesci per 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Ho raggiunto i miei discepoli camminando sulle acque, e così loro finalmente sono riusciti ad arrivare a destinazione che il vento non riuscivano a vincerlo. Ho guarito, cioè il fatto di guarire malati continua a dirlo San Marco, no? Il Vangelo di Marco continua a dire che continua a portargli i malati a guarirli. Figurati se questi non lo sapevano e che non volevano perdere, cioè, il loro potere spirituale, no? Avevano il cuore indurito, non volevano credere che fosse venuto Dio ad incarnarsi nel seno di Maria senza chiedere il loro permesso, senza consultarli prima, no? Nella Decapoli guarisce anche il sordomuto, glielo mandano, hanno capito che lui guarisce toccando, no? Allora glielo mandano perché imponesse le mani, e Gesù poteva fare così, ma Gesù, tu fai quello che ti pare. Questa è la santa cosa, è bellissima, no? Cioè, non è che sì, lo guarisci, ma lo guarisci come dici tu, non come dicono loro, e lo porti in disparte, lo prendi, anche lì penso che l'abbia preso per mano, però lì, ecco, e lo porta lontano per poter avere un dialogo con lui a tu per tu, dialogo con i gesti, perché è sordomuto, quindi con le dita nelle orecchie, con la saliva sulla bocca, e poi finalmente gli dice Effata, e questo ragazzo ascolta queste parole di Dio e finalmente sente e parla. Poi ha appena, cioè sono appena, hanno appena mangiato in 4.000. Quindi noi comprendiamo Gesù, facciamo questa carrellata per comprendere come tu in quel momento, per comprendere il tuo sospiro profondo. Per comprendere il tuo sospiro profondo. E io penso che, ecco, ci piace moltissimo vederti, Gesù, contemplare questa tua umanità fantastica. D'altra parte, anche vedere che nel Vangelo non è che tu agisci sempre nello stesso modo. Cioè, appunto, addirittura ci sono due Vangeli che dicono cose diverse. Ma anche in situazioni diverse fai cose diverse, no? E questo ci dà molta libertà. Anche nell'identificarci con te, non è che dobbiamo agire esattamente alla lettera come hai fatto tu, però prendere ispirazione sì, ma in molti casi c'è la nostra prudenza, come usiamo i nostri sentimenti, no? Noi ti ringraziamo di averceli donati, no? E poi ti chiediamo aiuto per utilizzarli per il loro bene. L'arrabbiatura è una potenzialità santa che Dio ha dato all'essere umano. Anche tu, Gesù, ti arrabbi, no? E solo che vogliamo imparare da te a incanalarla, ecco, per ottenere quel bene arduo per cui ci è data la capacità, no, dell'appetito irascibile. Il bene arduo, no, che si conquista, ci vuole forza, no? Ci vuole forza. Perché noi se no tenderemmo, chi più chi meno, insomma, alla pigrizia, a non complicarci la vita. dice il nostro padre in colloqui, bisogna chiedere a Dio la forza di dominare il proprio umore, la grazia per conservare il dominio di sé, perché i pericoli di un'arrabbiatura sono proprio questi: si perde il controllo, le parole si riempiono di amarezza, arrivano a offendere, forse involontariamente a ferire, a far male. Occorre imparare a tacere, ad attendere, a dire le cose in modo positivo, con ottimismo, anche se a lui capitava molto spesso di non riuscire. E infatti Don Ernesto Julià, che è stato segretario e lavorava nella segreteria generale per 20 anni, e infatti lo diceva in una convivenza di sacerdoti, e io a Don Javier, diceva al padre, allora gli ho fatto un piccolo appunto alle sue memorie, perché ho detto: beh, viene fuori come un San José Maria che fa tutto bene, viene sempre tutto al massimo. Invece non era così. Beh, evidente, se sono le deposizioni del processo di beatificazione, uno punta a dire le virtù eroiche sono queste, no? Per cui, e raccontava un aneddoto che a me pare bellissimo, ma forse l'avete già sentito. E lui sta lavorando nella sua segreteria generale, nelle sue cose, e spesso veniva lì il fondatore, no, con Don Alvaro, perché aspettava, che so, una visita o un documento che doveva arrivare, la posta, non so. E un giorno lo vede arrivare proprio rabbuiato in volto, e quindi lui non dice nulla, naturalmente continua a lavorare. Invece vede che Don Alvaro, che gli sta accanto, cerca di dire qualcosa per rasserenarlo, per fargli dimenticare il motivo di quell'arrabbiatura, no? E allora tenta con un primo argomento: Alvaro, lasciami in pace. Silenzio, tic tic tic tic tic tic tic, macchina da scrivere, tic tic tic tic tic tic tic, come si usava una volta, no? E carta carbone, questi ufficiali della segreteria. E Don Alvaro tenta una seconda volta cercando di cambiare, insomma, di raccontare una cosa: Alvaro, lasciami in pace. Poi ancora ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. E Don Alvaro: padre, sa, è quella. Alvaro, lasciami in pace. Silenzio, tic tic tic tic tic tic. Al quarto tentativo: sa, padre, che lei mi ricorda molto zia Carmen? Ah, e come mai? Quando io sono stato ordinato sacerdote, Don Alvaro, no? Lei mi ha detto: vai da Carmen e dille, se vuoi adesso, che un tuo nipote spirituale, sì, è diventato sacerdote. Se vuoi, io sono sacerdote, se vuoi puoi confessarti con me, e così eviti di far venire o di andare da quel padre agostiniano da cui ti confessi. E il nostro padre dice: ah, e cosa ti ha risposto zia Carmen? Alvaro, lasciami in pace. Allora lui raccontava questa cosa per... però è riuscito, al quarto tentativo è riuscito a rasserenare un po' il San José Maria, no? E che aveva, per chi lo ha conosciuto, poi lo vediamo anche i filmati o le registrazioni, sentimenti molto forti, no? Capacità di... Ecco, però aveva anche questa lotta che racconta. E un altro elemento per la lotta nei confronti dell'arrabbiatura, dice sempre in quel punto 108 di colloqui: a volte ci prendiamo troppo sul serio, tutti ci arrabbiamo di quando in quando, a volte perché è necessario. È molto rasserenante questo, no? A volte è necessario, altre volte perché ci manca spirito di mortificazione. L'importante è dimostrare che queste arrabbiature non incrinano l'affetto, sapendo ristabilire l'intimità familiare con un sorriso. A noi, a parte che, ecco, sono convinto, anche se io non ho sentito la vostra discussione di ieri mattina, che Cioè che ciascuno di noi ha la sua personalità, poi ha la sua, ha i suoi sentimenti, no? Quindi, e le motivazioni per un'arrabbiatura, per esempio, penso che possono essere tante e diverse. E dipendono anche dalla nostra storia, dipendono. E, è bello andare a vedere, per questo è interessante riuscire a fermarsi, se si riesce come Gesù, e dire perché mi sono arrabbiato, qual è il motivo? E riflettere, farci aiutare da chi ci conosce, portarlo all'orazione e dopo allora cercheremo di incanalare quella forza del sentimento per raggiungere quel bene che è nascosto, quell'aiuto a una persona, quel cambiamento in meglio di quell'aspetto del lavoro, quella correzione fraterna che altrimenti non sapremmo fare, cioè perché è arduo a volte per la nostra, non so, per la nostra umiltà, per la nostra correggere, però per questo a noi piace guardarti Gesù e fare l'orazione sui tuoi sentimenti, anche sul sentimento della meraviglia. Vedo solo i brani del Vangelo di Marco che abbiamo letto nelle messe di queste prime 5-6 settimane, no? Si meravigliava dell'incredulità dei Nazareni, cioè tu Gesù che sai tutto, che sei stato con loro per 30 anni senza dire mai una parola sulla tua vera natura divina, eppure tu ti meravigli della loro incredulità. La tua compassione per i discepoli che dice venite in disparte, riposatevi un po', il tuo amore per le gite, diciamo così, no? Possiamo dire così, per il riposo, per la compassione delle pecore senza pastore, per cui poi moltiplichi i pani e i pesci. E la costrizione, subito costrinse i discepoli a prendere la barca e andare all'altra, perché non volevano lasciarlo da solo. Lasciatemi in pace, cioè io congedo io la folla, voi adesso, che siete un po' pesanti, andate sulla barca, voglio pregare da solo, voglio pregare da solo, solo sul monte. Ma sei un individualista? Ma no, ci sta anche quello, no? Poi dopo, infatti, interrompe l'orazione, perché quelli là, poveracci, sono in mezzo al lago e non sanno che fare, e li vai ad aiutare, no? Gli incoraggia, coraggio, sono io, non temete. Si indigna con gli ipocriti, farisei, e poi ha voglia di dire il bene a tutti, ascoltate tutti, capite bene, venite qui, folla, farisei, mettetevi da parte, la folla, voglio parlare con la folla, voi non capite niente, guardate che tutti gli alimenti sono puri, non c'è qualcosa di impuro che, tra ciò che hai creato è che mi rende impuro, il male viene dal cuore. E poi anche quando va a Tiro, dice, non dite a nessuno che sono in questa casa, forse voleva stare tranquillo. Cioè, esce da Israele per dire, cioè, stiamo lavorando troppo. E poi invece arriva la donna sirofenicia e lui all'inizio resiste un po', non era nei suoi programmi, però cambia idea e ancora compassione. Poi domani anche c'è un sentimento di Gesù interessante, ma quello lo dobbiamo lasciare al predicatore di domani. Così, avendo voglia di sapere qual è, interverrete come oggi in Mose.